Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Signore e signori, abbiamo interrotto il nostro atterraggio a causa di un terremoto. Il personale di terra deve controllare l'agibilità delle piste, per cui non possiamo più atterrare a Tokyo. Ci stiamo dirigendo all'aeroporto di Nagoya. Nagoya. E adesso? Io mi chiamo Chiara, vivo a Peveragno, che è un paesino in provincia di Cuneo. Ho 47 anni e sono una dermatologa veterinaria. Vi sembrava di remare contro, andava tutto storto, tutto, aerei dirottati per i terremoti, parenti che si rompono braccia o gambe e quindi dovete stare con loro, cose al lavoro che vanno storte, auto che vi lasciano per strada, cellulari che si scaricano quando non si deve. Eppure, nonostante voi doveste remare contro, siete andati fino in fondo e l'avete portata a casa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, questo programma è Voi Siete Qui e noi oggi, tanto per cambiare, raccontiamo storie. Sono le 16 e quasi 9 minuti adesso, 349 238. Hanno abbassato il cartello con il numero cellulare e io, ma c'è scritto anche qua 349 238 6666. Se avete un cellulare fra le mani e volete mandare un messaggio e raccontare di quella volta che tutto andava storto, ma tutto si era messo di traverso, eppure voi siete arrivati fino in fondo. Altrimenti, se avete non solo un cellulare ma uno smartphone tra le mani, abbiamo un profilo Facebook che è Voi Siete Qui Radio 24, oppure un profilo Twitter che è Voi Siete Qui R24. Se siete invece al lavoro e state ascoltando di nascosto questo programma con le cuffie o invece liberamente perché siete da soli o comunque non dà fastidio la radio accesa, seguiteci dai nostri profili, dal sito di Radio 24. E se volete mandate anche una mail, voi siete qui @radio24.it. A proposito, visto che ogni tanto mi chiedono ma si possono ancora mandare i racconti, la risposta è sì, i racconti si possono mandare in qualunque momento. L'indirizzo è quello, voi siete qui @radio24.it. L'importante è che siano una storia che vi è realmente accaduta, un episodio della vostra vita che in qualche modo racconti qualcosa di voi, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Nella seconda parte di questa storia, visto che oggi si parla di cose che si mettono di traverso e soprattutto di remare contro, noi che ammetto non abbiamo molta fantasia ma soprattutto ci piace tantissimo averlo al telefono e averlo ospite, sentiremo al telefono Alex Bellini, che è un esploratore italiano che di remare ne sa qualcosa, avendo attraversato l'Oceano Atlantico prima e l'Oceano Pacifico poi, e insomma di remare contro ne conosce i dettagli più minimi. 349 238 6666. Facciamo un passo indietro, però cominciamo con un'altra storia, cominciamo con la storia di Chiara. Non mi sembrava vero, ce l'avevo fatta, stavo atterrando su Tokyo. Fino a pochi giorni fa sembrava che non riuscissimo nemmeno a partire con la serie di sfighe che ci sta perseguitando ormai da mesi. Tutto è cominciato a Pasqua dell'anno scorso, quando avevo notato una piccola zona più chiara sul naso del mio cane. Sono una veterinaria e subito ho capito di cosa si trattava. Linfoma cutaneo, una malattia incurabile. E infatti, ai primi di novembre, la nostra cagnolina ci lascia. Dopo 10 giorni il nostro cavallo scivola, si rompe una zampa, in modo irrecuperabile. Dobbiamo sopprimere anche lui. Dopo un mese, un giovedì, sotto Natale, con un'agognata e già prenotata settimana bianca in programma, si rompe un braccio mio suocero. Deve essere ricoverato e operato il lunedì successivo. Mio marito decide comunque di accompagnarci all'appartamento preso in affitto, stare con noi a sciare solo per il weekend e poi tornare da suo padre per l'intervento. Abbiamo appena finito di caricare le valigie in macchina, quando squilla il cellulare di mio marito. Suo zio, di cui è l'unico parente, si è rotto il femore. Mio marito tira giù la valigia, mi passa le chiavi della macchina e se ne torna a casa. Per lui niente sciata, nemmeno nel weekend. Dopo 2 giorni trova il gatto agonizzante sotto il letto. Lo porta d'urgenza dal veterinario. Mio suocero viene dimesso, tutto bene, lo zio viene dimesso, ma muore per un embolo dopo 10 giorni. Il gatto viene dimesso per sopravvivere 2 mesi. Insomma, è un'ecatombe. Il periodo di sfortune è iniziato ad aprile del 2010 ed è terminato con il viaggio in Giappone a marzo del 2011, quindi praticamente è durato un anno. Non l'ho considerato un periodo di sfortuna, nel senso, come sono sfortunato non mi sono mai pianta addosso, però era quasi incredibile che continuassero a capitare cose, non so se mi spiego. Per fortuna poi dopo c'è stato un bel periodo senza tanti problemi e di grande serenità. Siamo ai primi di marzo, il 10 devo andare in Giappone per lavoro. Ho la possibilità di attaccarci una settimana di vacanza con mio marito. Il Giappone è il sogno della sua vita. Mio marito è un fanatico dei libri sui samurai. Tutto programmato. Volo, gite, guide turistiche. Il 7 marzo la signora delle pulizie trova mio suocero riverso in bagno. È vivo, ma è dalle 3 del mattino che è sul pavimento e non riesce ad alzarsi. È chiaro, non può più vivere da solo. Il 7 sera ho già trovato una badante. Può venire sin da subito. Il nonno fa un po' di resistenza, poi accetta. È fatta, possiamo partire. E ora non mi sembra vero. Ce l'abbiamo fatta, stiamo finalmente atterrando a Tokyo. Stiamo arrivando in Giappone. Per fortuna vengono a prendermi all'aeroporto. Stiamo scendendo ed ecco i grattacieli sulla sinistra, a destra al mare. Quanti campi da golf ci sono vicino a Tokyo? Non sapevo che i giapponesi amassero così tanto il golf. Da vicino si vedono molto bene. Sento uscire il carrello e poi succede qualcosa. L'aereo riprende quota. Comincia a girare sulla città. L'annuncio del comandante dice: signore e signori, abbiamo interrotto il nostro atterraggio a causa di un terremoto. Il personale di terra deve controllare l'agibilità delle piste, per cui non possiamo più atterrare a Tokyo. Ci stiamo dirigendo all'aeroporto di Nagoya. Al momento dell'atterraggio mancava veramente pochissimo, perché l'aereo aveva già fatto uscire il carrello, quindi non più di pochi minuti. Io sono una patologa veterinaria e vengo spesso chiamata all'estero per tenere delle relazioni a dei congressi o a dei corsi, e in questa occasione dovevo partecipare al congresso di dermatologia a Yokohama come relatrice. A Nagoya ho trovato il modo di prendere lo Shinkansen, il treno rapido per Yokohama, dove per puro caso sono uscita dalla stazione dalla parte in cui mi aspettavano i miei colleghi. Comunicare con i giapponesi per ottenere informazioni e comprare il biglietto non è stato facile, perché veramente pochissimi parlano inglese. A causa del terremoto tutti gli impegni di lavoro sono stati cancellati e mio marito ed io siamo stati un po' abbandonati a noi stessi a Kyoto, dove abbiamo passato la più bella settimana da turisti spensierati da molti anni. Per vostra informazione, sono anche stata bloccata a Chicago 2 giorni per il vulcano islandese. E poi a Francoforte per la tormenta di ghiaccio e neve. Sono atterrata a San Martín anziché a Guadalupe per l'eruzione del vulcano di Guadalupe. Mi hanno detto queste cose mi succedono perché viaggio molto. Chi mi conosce però ora evita di viaggiare con me. Io avevo 20 anni quando ho deciso di imparare ad andare in barca a vela. Non avevo mai messo piede su una barca e mi sembrava che fossi già in ritardo rispetto ai miei programmi. Però ero determinato ed ero convinto ad imparare. Avevo prenotato il corso da principianti a Caprera con mesi di anticipo. Avevo tutto quello che mi sarebbe servito. Ero pronto e niente mi avrebbe fermato. Una settimana prima di partire, però, era sparito il biglietto del traghetto Genova-Olbia. L'avevo spostato troppe volte, quindi non lo trovavo più. Mentre cercavo il biglietto, tra le cose da portare assolutamente, mi ero accorto che la cerata di seconda mano che mi ero comprato per l'occasione aveva uno squarcio, quindi sarebbe entrata acqua. Il giorno dopo, in compenso, avevo fatto una gara di tuffi con degli amici al Ticino e mi ero stirato il quadricipite femorale. Il risultato era che non riuscivo a camminare senza zoppicare. La data della partenza si avvicinava e tutto sembrava remare contro. Per ultimo era affondato in Sri Lanka un traghetto e mia mamma, che era già un po' preoccupata che andassi in barca, ci aveva visto un cattivo presagio e insisteva perché rimanessi a casa. Io ho dimenticato la mia parte razionale e ho tenuto duro. Ci volevo andare e quindi non c'erano buoni o cattivi motivi per andare o stare a casa. Io ci volevo andare e sono partito. Lo stiramento è passato appena salito in treno. A Genova ho scoperto che si poteva semplicemente richiedere un duplicato del biglietto del traghetto. E a Caprera ho trovato subito una cerata in prestito. È stata una vacanza fantastica e ancora adesso ogni tanto, quando riesco, porto i miei amici in barca. E questo è un piccolo episodio. Però ci sono dei periodi, nella vita di tutti, in cui le cose non vanno proprio come dovrebbero. Anche se facciamo di tutto per evitarli, comunque ci andiamo a sbattere tutti prima o poi. Quindi tanto vale aspettare che passino nel modo più indolore possibile. E quando saranno passati, saremo più forti e avremo scoperto qualcosa di più, di noi, forse. Tutto questo ovviamente è interessante a parole, ma Poi dobbiamo fare i conti col fatto di avere un approccio razionale alla vita. Per forza di cose siamo abituati a costruire sempre un rapporto causale tra le cose. Una segue l'altra e in mezzo ci metto i motivi per cui è così e siamo convinti di avere il controllo su quello che ci succede. Facciamo un po' fatica ad accettare che ci sfugga qualcosa e che le nostre scelte non siano determinate solo dalla nostra volontà. Ma visto che l'uomo è fatto di un sacco di cose anche diverse tra di loro, in pieno contrasto con la mia propensione razionale, mi piacciono i vulcani. Mi piacciono gli elementi naturali in genere, mi affascina l'onda anomala, il tifone, le valanghe di neve. Il vulcano però in assoluto è il mio preferito. Il vulcano unisce elementi scientifici, tipo la temperatura, la velocità del magma, la pressione del tappo, a elementi invece immaginifici, tipo la bocca del cratere è la porta del mondo sotterraneo, fatto di forze misteriose, forze spaventose. Il vulcano è un rompicapo per i geologi, per quanto si cerchi di prevederlo, sfugge ai controlli in continuazione. Quando esplode, esplode, mica lo si sa prima. È un po' quello che succede quando ci si innamora, no? Il mio vulcano preferito è lo Stromboli, che è l'unico vulcano al mondo che ogni 20 minuti circa spruzza qualche lapillo. In Italia c'è anche uno dei vulcani potenzialmente più pericolosi del mondo. Si dice che quell'enorme vulcano che sono i Campi Flegrei, la zona sismica a nord di Napoli, se si risvegliasse potrebbe tradursi in un'esplosione 200 volte superiore, 200 volte a quella del vulcano islandese, che 4 anni fa ha bloccato il traffico aereo a tempo indeterminato. Mi piacciono i vulcani non per la loro forza devastante, ma perché ci danno la dimensione per prendere la vita con la giusta leggerezza. La storia dei vulcani rimane la stessa, da sempre. Ogni volta che un vulcano erutta e il cielo si oscura di cenere, l'uomo si interroga e le risposte che ne trae diventano letteratura. Per alcuni è un problema da risolvere, per altri è una soluzione, una pausa dopo tante rincorse. Per alcuni crea scompiglio, per altri è un faro nell'oscurità. Ogni giorno una storia, ogni giorno una persona diversa, ogni giorno una foto diversa. In questa foto, che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Chiara, l'autrice protagonista della storia, è su una hamaca con tutta la famiglia, ma proprio tutta. Sono lei, il marito con la barba bianca, estate sono tutti quanti più o meno svestiti, cioè in maniche corte intendo dire, lei, il marito e i due figli. Una è una bimba e si vede, l'altra, perdonatemi, è troppo piccolo per riconoscerlo, se è un maschio o una femmina, e addirittura un cane o una cagnolina. Ero stato, dovevo andare ad Austin in Texas, vacanza super sudata con ore e ore di lavoro, extra discussioni con Morosa, finalmente arriva il giorno per la partenza e neve su New York, tutti i voli annullati, American Airlines non risponde, appena riesco a mettermi in contatto e posso spostare il volo, puff, finisco i soldi nel cellulare prima dell'ultimo passo per la conferma del volo, un incubo, non mollo la scheda telefonica, da un numero pubblico rifaccio tutta la trafila per un'ora e alla fine ce la faccio, Austin ti adoro, ciao Marco, 349-238-6666. Sono soprattutto i viaggi quelli in cui succedono delle cose che si mettono di traverso per cui ti trovi a remare contro. E uno che in qualche modo di viaggi ne sa è Alex Bellini. Pronto Alex? Ciao a tutti. Ciao, ciao Matteo. Come stai? Fantastico, molto bene, grazie. Dove ti trovi? Sei in Inghilterra, giusto? Sì, sono a casa mia in Inghilterra. Allora, ricordiamo per chi non lo conoscesse, in realtà gli affezionati di Voi Siete Qui ti conoscono, ma non solo di Voi Siete Qui, anche in precedenza di Caterpillar, di Radio 2 e chiunque conosca Alex Bellini in qualità di esploratore. Alex è un ragazzo, quanti anni hai? 35 adesso Alex, giusto? 35. È un giovane uomo che oltre ad avere una famiglia, una moglie, due figlie e un cane, cerca semplicemente, è uno come dice Tiziano Bonini, Alex è uno che non ha voglia di annoiarsi sostanzialmente, quindi cerca sempre di alzare l'asticella e di andare a esplorare cose nuove. Tra le cose che ha fatto, io Alex ne dico sempre due o tre, poi lo ricorderai tu meglio di me, ha attraversato di corsa gli Stati Uniti dalla California a New York in 70 giorni, giusto? Sì, esatto. Ha attraversato a remi l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, uno in 8 mesi, l'altro in 10 mesi più o meno. giusto? Mm-hmm. Ed è per questo che, Alex, ci sei venuto in mente quando si parla di remare contro, nel senso che ci racconti proprio in, adesso, pronti via, la volta in cui in mezzo all'oceano o dovunque ti trovassi nei tuoi viaggi, nelle tue esplorazioni, una volta in cui proprio hai detto no, non ce la faccio, no, adesso è veramente troppo, e poi invece, come dici sempre tu, hai abbassato la testa e hai continuato a remare. Ce ne sono tante di situazioni. Quella che mi viene prima alla mente è una che mi successe nel 2008, nella traversata del Pacifico. Erano già 7 mesi e mezzo, quasi 8 mesi che remavo senza vedere terra. Ero atteso in Australia dopo questa lunga traversata partita dal Perù, proprio in quei giorni, ma ero distante ben 2500 chilometri dall'Australia, quindi mi mancavano qualche settimana di navigazione, e in quei momenti mi rendo conto che sia difficile forse immedesimarsi nella situazione, ma remavo 15 ore al giorno procedendo 30 miglia verso l'Australia, e nel periodo di pausa, mentre dormivo, retrocedevo di 15-20 miglia, quindi era come se avessi scelto di andare verso l'Australia facendo 3 passi avanti e 2 indietro. E devo essere onesto, la sensazione di sconforto, di frustrazione era enorme, perché non trovavo giusto, non c'era fair play in quel gioco, dove io ero ovviamente la vittima, perché non potevo certo impormi sul volere sulle condizioni del mare. Che cos'era, la corrente o il vento o tutte e due le cose? Erano le correnti sottomarine in quella zona lì, proprio avete parlato di vulcani, guarda un po' il caso, perché proprio nel fondale dell'Oceano Pacifico, in quelle zone lì si trovavano molti vulcani sottomarini che eruttando sprigionavano, insomma buttavano, creavano dei vortici a causa della differenza di temperatura che ti spingevano che indietro. Sembrava di essere su un nastro trasportatore, e talvolta la corrente era vantaggiosa, ma girava sempre, e quindi non c'era pace in questo. E cosa fai in quei casi, Alex? Che cosa fai in quei casi? Remi. Abbassi la testa e remi. Abbassi la testa e remi, perché talvolta non hai scelta, ti sei condizionato, hai condizionato la tua vita per trovarti esattamente in quel preciso momento, ti sei allenato una vita per vivere in attesa di quel momento, perché essere navigatori quando il mare è piatto è una cosa tutti. Semplice, lo potrebbero fare tutti, invece ci si allena per una vita per affrontare quella difficoltà in cui devi giocartela, quando hai l'ultima possibilità di riuscita, ecco che allora esce la tigre che c'è in noi, che risiede in un angolo di ognuno di noi. E se posso dire una cosa, senza voler essere per questo considerato come un saccente, un santo, uno che le sa tutte, a distanza di tempo, se noi facciamo un attimo una riflessione sulle nostre sfighe, no? Sui nostri problemi che abbiamo incontrato nella vita, quel momento ha prodotto il più bel prodotto della nostra vita, quindi a distanza di tempo benediremo quei momenti di grande difficoltà, perché ci hanno trasformati sempre in meglio, anche le situazioni peggiori, viste col senno di poi, bisogna solo ringraziare, perché è quello che ci fa evolvere come persone, che ci fa maturare, che ci fa diventare più saggi. Se volete sapere qualcosa di più di Alex Bellini, ci sono diversi libri che lui ha scritto, uno è Il Pacifico a Remi, che proprio racconta quell'avventura, e l'ultimissimo, che è uscito da poco invece, si intitola L'avventura e l'impresa, ed è di fatto uno scambio di battute tra Alex Bellini e Riccardo Donadon, che è il fautore, l'inventore di H-Farm, giusto Alex? Quindi sì, lì esatto. Se volete c'è qualcosa da imparare. Alex, io purtroppo ti devo salutare perché abbiamo già finito il nostro tempo a disposizione, però tu sei sempre invitato qui, quando passi da Milano, quando torni in Italia sei invitato a raccontare le tue cose in trasmissione. Con grande piacere, un saluto a tutti. Ciao Alex, grazie ancora. 349-238-6666, qualcuno dice... questa qui di Peveragno deve stare a casa. Questa qui di Peveragno è Chiara, l'attrice della storia, ma come ci ha spiegato lei è che viaggia di lavoro e quindi deve, però la lettura questa qui deve stare a casa. Me lo vedo, capito? Lui è lì in macchina che ascolta la radio e dice: ragazzi, questa qua deve stare a casa, ma cosa va in giro a fare? Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Pietro Lacorte, Tiziano Bonini, Margherita Hina, ringrazio anche lui in macchina. Stai a casa, ma dove vai? Adesso diamo la linea ad Oscar Giannino, grazie soprattutto a Chiara, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Francesco, vivo a Firenze, la storia di domani è la mia e parla di musica. Questa è la mia storia e io sono qui.